Gazzettino del 2015. Gazzettino del 2015. 15 maggio 2015. Banda larga, gli investimenti degli ultimi anni fanno volare l'economia. La delicata fase di rafforzamento delle infrastrutture digitali mondiali è stata gestita bene e i risultati si sono tradotti in un'eccezionale crescita economica. E questo è il bilancio tracciato dall'ultimo summit dell'ITU, l'Agenzia ONU per le telecomunicazioni. 3 anni fa, Amadou Touré, segretario generale dell'ITU, aveva lanciato l'allarme sul rischio che la crisi rallentasse gli investimenti per portare la banda larga anche alle popolazioni ancora non raggiunte dal servizio. Touré aveva indicato la necessità di un modo equo per finanziare l'infrastruttura a banda larga. 3 anni dopo, il risultato è stato raggiunto in molte aree del globo grazie ad una distribuzione dell'impegno tra il privato, compagnie di telecomunicazioni, ma anche grandi player dell'economia digitale e del pubblico. Fin qui la notizia del 15 maggio 2015, ma come sapete il futuro ha radici nel presente, in questo 2012. L'allarme lanciato nei giorni scorsi da Amadou Touré pone il problema di come finanziare gli 800 miliardi di dollari che l'Associazione Mondiale degli Operatori Mobili ha stimato servano per coprire il digital divide, un problema che tutti i paesi del mondo si pongono. E l'Italia? Marco Zamperini, promotore di Agenda Digitale. La sensazione che ho io, devo dire in buona compagnia, è che siamo in una situazione un po' di stallo. Oltretutto non dobbiamo dimenticare che siamo un paese membro della Comunità Europea, che è abbastanza rigida sul fatto che lo Stato intervenga per sussidiare la messa in opera di infrastrutture. Allora ci sono dei paesi che decidono di farlo comunque, come la Germania, ad esempio, accettando le sanzioni comunitarie. Lo Stato interviene supportando gli operatori di telefonia nella messa in opera di infrastrutture. Da noi questa cosa è chiaro che non avverrà. Gli operatori hanno dichiarato che fanno investimenti, ma nel senso del potenziamento dell'infrastruttura che serve alla messa in opera delle reti cellulari di nuova generazione, quindi mi sembra che sia un po' un punto morto, no? Poi quello che vediamo invece sono iniziative però di carattere regionale o iperlocale, dove magari ci sono delle municipalità che decidono in autonomia di potenziare l'infrastruttura sul territorio comunale, e chiaramente è una politica un po' frammentata, mentre avremmo bisogno insomma di un progetto paese. Era un po' uno dei temi che proponevamo anche quando ci siamo fatti promotori dell'agenda digitale. È tutto per questa puntata del Gazzettino del 2015, condotta da Anna Rita D'Ambrosio e curata da Paolo Piacenza. Se volete scriverci, potete farlo all'indirizzo mail gazzettino2015@radio24.it.